Solo che io ho una proposta a questo punto, visto che tutti abbiamo espresso una certa interesse per il punto sull'autoformazione, e quella di, sono emersi, diciamo, il fatto di fare quattro eventi più delle cose in videoconferenza, quindi c'hanno già delle proposte sul piatto. Propongo ad ogni realtà, se vuole tipo fare mando una persona per un gruppo di lavoro, così magari queste, non lo so, ci si parla e dice. Stella Rossa, mandiamo, non lo so, uno di noi, Thor, All Reds, Dinamo, eccetera. Così si accorda e diciamo, ok, facciamo queste quattro date, le facciamo in questo format, ne facciamo le prime due in videoconferenza, queste e poi la terza tutti insieme, non lo so. Però almeno avere un responsabile per squadra che si interessa di questa roba e la porta avanti all'interno della rete. Così, dando, diciamo, questa sorta di responsabilità, ci assicuriamo che vada avanti. Secondo voi è un'idea fattibile oppure. Vabbè, questo ne possiamo parlare dopo. Intanto sta proposta è stata lanciata. Ora ripartiamo dal momento in cui un Scusatemi. pilone è stato scavallato da un tre quarti. Quindi iniziamo a riparlare di alcune robe. Prima parlavamo delle realtà Dimenticate. che non potevano essere presenti. Volevamo provare a sentire anche Librino. Abbiamo parlato dell'Assemblea di Catania. Vabbè, comunque un obiettivo che hanno raggiunto loro e secondo noi è stato anche molto importante il fatto che hanno un vero campo nuovo, ma non è tanto il fatto che gli hanno costruito il campo, è che questo campo proviene da un percorso, nel senso che la realtà di Librino, per chi non la conoscesse, Librino è un quartiere di Catania che è un po' staccato dalla città e fa 70.000-80.000 persone, nasce in un contesto molto complicato, diciamo che è l'equivalente dello Zen di Palermo, di Scampia a Napoli. Quel campo è stato occupato 10 anni fa, e quindi era anche un vero e proprio spazio sociale che lavorava nel quartiere, faceva attività con il quartiere, e loro piano piano hanno costruito questa vera e propria forza, e all'oggi sono riusciti ad arrivare ad avere un campo della Madonna. Per chi è stato giù, insomma, di noi, di Milano e di Torino, possiamo dire che oltre al fatto del campo è proprio la situazione che sono riuscito a creare all'interno del contesto del quartiere, appunto super complicata, perché svariate volte tutti lo sappiamo che gli hanno bruciato la clubhouse, gli hanno fatto vari sfregi, perché a delle persone che hanno degli interessi specifici lì non va bene che ci siano loro che tirino in mezzo i ragazzetti, perché quei ragazzetti un domani potrebbero diventare dei soldati per fare altro. Veri e propri soldati, perché poi di guerra si tratta fondamentalmente in quei territori. E vabbè, niente, quindi questo era un altro aspetto abbastanza importante. Come aveva appunto che una realtà che parte da un'occupazione di un campo, eccetera, riesce a creare una società con più di 400 tesserati, dall'under 7 fino alla old, sia maschile che femminile. La femminile mi pare parte dall'under 13, comunque hanno veramente, veramente tante persone che girano intorno all'interno del quartiere e iniziare a diventare una realtà importante per Catania. Come ha detto Thor prima, c'è un calendario del rugby popolare, e i prossimi appuntamenti, li ricordiamo, sono sabato 25 a Torino, questo evento organizzato dalle compagne e dai compagni della Dinamo d'Ora. Il 2 luglio a Teramo ci sarà la partita di rugby che inaugurerà l'undicesimo torneo antirazzista organizzato da Azione Antifascista Teramo, e poi il 9 luglio invece a Bologna ci sarà l'evento organizzato dalle compagne e dai compagni dei Cinghiali. Il 9 luglio, insomma, la palla ovale popolare ritornerà a Bologna. In mezzo a tutti questi eventi qui a Catania, appunto, riguardo i discorsi che ci eravamo fatti prima, avevamo pensato di fare una roba in valle. Ora proviamo a chiamare questo compagno. L'iniziativa in valle sarà il 31 luglio. Secondo me può essere uno di quei momenti importanti dove questa proposta che abbiamo lanciato, anche di cercare di creare un percorso di autoformazione e avere quattro momenti, può essere finalizzata lì, nel senso che se poi abbiamo voglia, con tutte le difficoltà del caso, però è normale arrivare venerdì 31 luglio in valle, può essere complicato per molti, per molte, però possiamo provare a organizzarci con una sorta, non lo so, appunto, come diceva prima qualcuno, possiamo fare una videoconferenza Zoom, non so come funzionano queste cose. Io posso provare a creare comunque un link streaming come oggi. Chi non può partecipare può comunque sentire l'assemblea. Poi creiamo un podcast, cerchiamo di creare dei momenti decisionali riguardo l'argomentazione maggiore che è uscita oggi. Quindi ora chiamiamo questo compagno. poi con il mio caro amico Mico rilanciamo un momento importante che potrebbe rientrare tra i quattro punti, appunto dei quattro momenti pratici che potrebbero essere quelli dell'autoformazione per l'anno prossimo, per il ventennale di Dax, e poi ci saranno dei compagni che rilanceranno l'appuntamento della backup. Ora proviamo a sentire Mirko, sperando che non ci ha lietamente mandato a quel paese, dato che aspettava la chiamata da ore in memory. Va bene, anche un'oretta di ritardo, Pasqua, secondo me è andata ottima. Un'ora e mezza di ritardo, cioè, che cazzo deve fare Mirko? Perché Mico mi ha scavallato. Pronto? Pronto, ciao Mirko, ci senti? Sto Pasqua, ti sento. Ciao. Vi sento forte e chiaro. Ok, ciao. Non so se sei riuscito a seguire un po' gli interventi dell'assemblea, va bene, come detto, insomma, volevamo provare a cercare di rilanciare questa data e questo appuntamento in Val di Susa del 31 luglio, quindi se ci volevi parlare un po' dell'iniziativa e di quello che si pensava di poter provare a costruire su in valle. Sì, io ho sentito un po' gli interventi che sono stati fatti prima, erano più tecnici sul rugby e quant'altro. Riprendo i discorsi che ci eravamo fatti giù a Catania con l'idea di rifondare un po' una franchigia nazionale che si occupi, che faccia da supporto, non che si occupi, che faccia da supporto ad eventi sia legati al rugby sia legati alle lotte sociali nel territorio. Questa qui era l'idea di fondo. Vengo da quella che è stata la franchigia Old No Tav, No Muos, No Ponte, con la quale avevamo fatto diverse iniziative dalla valle fino giù a Catania, appunto, e giù a Niscemi. E quindi niente, era l'invito, era una, rilanciare un invito a vedere se si riesce a mettere in piedi questa rete di legami, questa possibilità di poter liberarsi ogni tanto e fare con un po' di gioia, con un po' di tranquillità e di felicità appoggio alle varie iniziative che sono fatte sul territorio. Sentivo prima dell'impegno nei carceri, si parlava giù a Catania di altri impegni, di iniziative di sport a sostegno della diversità delle cose. E secondo noi, secondo quelli che siamo rimasti un po' di quella franchigia, c'era la voglia di continuare questa esperienza e allargarla. Questa è l'idea di base. Se questo qui può essere un primo lancio. Una seconda parte invece è l'iniziativa pratica concreta di quest'estate. Si voleva rilanciare, noi abbiamo fatto diversi tornei su in Val di Susa. Per dare una mano, l'idea che il rugby aiutasse a fermare questa ignobile farsa, e abbiamo fatto diversi tornei e c'era l'idea di ripartire, di rifare un torneo durante il festival dell'Alta Felicità, che verrà fatto il venerdì, sabato, domenica, mi pare il 29, 30, 31 luglio. E il 31 luglio ho parlato con gli organizzatori e loro sarebbero ben contenti di ospitarci sia per il torneo che potremmo organizzare, cioè una cosa promozionale, una cosa da fare tra noi, una cosa da inventarci, una cosa da vivere, in cui coinvolgere magari anche gli altri giovani che sono lì. E nel coinvolgere gli altri, una delle proposte che era stata fatta parlando così con chi organizza il festival, c'era la possibilità di organizzare un incontro anche il 31 mattina o quando si vuole sullo sport popolare, in modo da cominciare a presentare non solo il classico no a un'iniziativa che sappiamo tutti che è un'iniziativa malata, ma rilanciare proposte di vivere sociale, di vivere comunitario, cosa che la Valle ha sempre portato avanti. Quindi, riepilogando, una ripartenza di questa franchigia, di questo gruppo libero di giocatori di rugby che si trova insieme per sostenere, per sostegno, è partito dalla Valle, ma a questo punto a sostegno di tutte quelle che sono iniziative di lotta territoriali. E d'altra parte, appunto, questa qui, intanto cominciare, l'appuntamento potrebbe essere un primo appuntamento, trovarsi su in valle il 31 per fare questo. E ho visto anche quelli che sono riuscito a seguire prima alcuni interventi su quello che è il significato del rugby popolare e così via, magari poter pensare se c'è disponibilità. Non si sia disponibile, se c'è disponibilità a poter organizzare con gli organizzatori della del festival, un momento, un punto di incontro, un dibattito sullo sport popolare, in modo da presentarlo, non tanto una cosa su cui discutere su come farlo, ma trovarsi insieme magari anche con quelli che fanno un calcio popolare, quelli che fanno anche altre attività di sport popolare, e presentarlo e trovarsi a fare un due parole su queste cose qua, no? Sui significati, su quelle che sono le motivazioni che ci spingono a fare quello che facciamo. Io questo penso di aver da dire, no? Mi dispiace non essere lì, anzi vi saluto e vi faccio gli auguri, è stato anche molto bello e molto interessante ascoltarvi prima. Rimango in attesa delle vostre richieste di delucidazioni, sono abbastanza parco di parole. Io poi ho avuto un'idea bellissima per far rivivere la franchigia della rete di rugby popolare. Facciamo le selezioni come i Lions, facciamo le selezioni delle squadre che fanno parte della rete popolare, selezioniamo i 25 che devono giocare e poi tutto il resto contro di loro, e facciamo così le iniziative. Per me questa è un'idea bellissima, ragazzi. Che è tipo un elemento base è il terzo tempo, comunque. Assolutamente. Sì, sì. Il terzo tempo, ma anche il coinvolgimento. Secondo me c'è un doppio binario: è quello del terzo tempo, del far festa, del trovarsi insieme e quindi dare un sostegno con questa iniziativa, ma proprio anche dare l'idea, dare una speranza, dare nuovi modi, nuovi percorsi, nuove possibilità. Perché la Valle non è solo nostalgia o voglia di fare delle cose o voglia di tornare all'antica, proprio è trovare fuori nuove forme di vita, nuove forme di comunità, nuove forme di vivere insieme, del portare proposte, portare progetti, e questo qui secondo me sarebbe bene, appunto col tanto tempo che è fondamentale in questo. No, questa è un'idea stupenda, ragazzi, che ho appena avuto, ve lo dico, io più ci penso e più è meravigliosa. Va bene, dai, allora magari proviamo, se ci sono domande, se no proviamo a rilanciare l'appuntamento del 31 e poi per chi ha voglia magari... Vi chiederei magari se riuscite, magari, visto che siete un bel gruppo che state discutendo di cose molto belle, appunto se ci fosse la disponibilità di qualcuno di poter pensare, magari ci sentiamo per questo, all'organizzazione di un incontro sullo sport popolare. Questo potrebbe essere un altro piccolo tassello, perché appunto non è solo andare a fare la partita, ma diventa anche un qualcosa che si presenta ai giovani. Teniamo presente che lì ci saranno un sacco di giovani, un sacco di persone che vengono da tante parti d'Italia, e il portare queste idee, quelle idee che ho sentito oggi girare nei vostri incontri, nei vostri racconti, il poterle portare e presentare, secondo me sarebbe una cosa molto molto importante. Questo all'interno dei 3 giorni del Festival di Alta Velocità, sì. Perfetto. Vabbè, su questo magari ci organizziamo, sì, e ci sentiamo, perché su quello, vabbè, questa è l'opinione mia, sarebbe fondamentale, occhio al cavo, raga, occhio al cavo, grazie, sarebbe fondamentale un po' di apporto e di supporto da parte delle realtà territoriali presenti lì, nel senso noi possiamo provare a venire come rete del rugby magari da Milano, però se si vuole parlare di sport popolare poi magari deve essere coinvolgente riguardo le realtà che... Sì, porta mi pare avanti di lo sport Aldora. Popolare nel Piemonte, sì, c'è la Dinamo d'Ora, sì. Gliela accogliamo a loro ed è fatta. Esatto, no? Perché poi le altre parti le contattano gli ASCA, che sono già sul territorio, che qua hanno già contatti con altre realtà, no? Per quanto riguarda noi come rugby sarebbe una bella presentazione, un bel modo per poterci presentare. Ciao. Allora, sono Chiara e approfitto che ci sia Mirko in connessione perché mi piacerebbe portare una piccola esperienza su Catania, oltre a quello che è già venuto fuori parlando appunto dei 3 giorni a fine aprile, perché appunto mi spiace che non ci sia una della femminile a poterne parlare, o chiunque sia lì, insomma Mirko appunto mi aiuterà sicuramente in questo. Però ho avuto la possibilità di allenarmi con la femminile un paio di volte e credo ci sia una realtà lì che appunto a livello di spazi, è vero, prima parlavamo a volte del campo che si suddivide in maniera disomogenea, ma credo che sia stata anche probabilmente una visione non completa del quadro che ci sia, perché in quei 3 giorni secondo me anche a livello di comunicazione comunque. Però c'è una squadra, comunque ci sono anche le under 17, le under 18, e sono appunto ragazze che si allenano, sicuramente l'aspetto del misto effettivamente non era stato contemplato, non è stato contemplato finora, però dal punto di vista dell'organizzazione di squadre femminili a diverse età ho visto una situazione molto bella, e secondo me sarà interessante anche in futuro scambiarsi anche da questo punto di vista esperienze e consigli, e niente, volevo portare questa cosa. Grazie a tutti, comunque in più è stato in realtà, volevo ringraziare tutti e tutti per gli interventi fatti, spesso avrei voluto partecipare, ma sicuramente è stato molto bello sempre trovare questi luoghi per discutere di tutti questi argomenti che vanno veramente su tanti piani, e quindi grazie. Bellissimo, tra l'altro Chiara Marte ha preso nota di tutti gli interventi, quindi dopo vi seguirà individualmente, vi farà delle domande, quindi cercate di prepararvi. Pasqua, possiamo chiudere? Micolo, Micolo.